Letture di Radio 24. Per evitare il pericolo delle troppe distrazioni, ma anche per problemi legati alla sicurezza, i Pokémon sono stati banditi dalle scuole francesi. E in Italia? Ad aver paura dei mostriciattoli sono i maestri e professori, intimoriti dalla possibilità di trovarsi in aula a spiegare la Prima Guerra Mondiale o Alessandro Manzoni, tra PJ e Krabby, come scrive Alex Corlazzoli su Il Fatto Quotidiano, che poi prosegue. Un'ipotesi presa seriamente in considerazione dal governo francese, che ha chiesto alla Niantic di bandire Pokémon Go dagli istituti. A lanciare la guerra contro i mostriciattoli che hanno cambiato la vita dei nostri figli e alunni, è sceso in campo persino il ministro dell'Educazione, che in una conferenza stampa ha annunciato nei giorni scorsi di voler chiedere alla Niantic di escludere la presenza dei Pokémon dagli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Una scelta nata per due motivi. Il primo, la distrazione. Il timore è proprio quello che gli studenti, soprattutto quelli più grandi, in grado di nascondere il cellulare sotto il banco mentre il docente spiega la lezione, possano essere più interessati alla cattura dei mostri che alla spiegazione di letteratura o matematica. Il secondo, la sicurezza. Secondo quanto riportato da Le Figaro, il ministro francese pensa che la caccia ai Pokémon potrebbe portare a scuola persone che non siano studenti. Una preoccupazione nata dalla cronaca di folle impazzite che si muovono da una parte all'altra per poter conquistare Pikachu o Mankey. Un provvedimento di buon senso che sarà esteso anche ai musei e agli ospedali dove in Francia si segnala la presenza di mostriciattoli. Una problematica che si presenterà presto anche in Italia. I Pokéstop, ovvero le stazioni dove prendere Pokéball, sono ovunque, dai sagrati delle chiese, alle piazze, ai locali pubblici, agli edifici culturali. Tra qualche giorno dovremo verificare se i Pokémon hanno conquistato anche i nostri edifici scolastici. Per ora nessuno al Ministero dell'Istruzione si è posto la questione. Il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, ha ben altro a cui pensare in questi giorni, tra la ricostruzione delle scuole ad Amatrice, la chiamata diretta, il caos conciliazioni e chi più ne ha più ne metta. Ma la richiesta della collega francese non è per nulla fuori luogo. C'è il rischio che anche le nostre aule siano infestate da PJ e rattata. L'editore del gioco non si è posto limiti. Sfruttando la realtà virtuale ha piazzato mostri ovunque. Li abbiamo incontrati nelle nostre case, nei commissariati di polizia, nelle corsie degli ospedali, persino nell'ex lager nazista Auschwitz-Birkenau. È evidente che faranno comparsa anche a scuola e non potremo restare a guardare. È per questo che i nostri istituti, come in Francia, vanno depokemonizzati, oppure dovremo intervenire educando, richiamando i nostri ragazzi a un senso di responsabilità. Con l'inizio della scuola, che piaccia o meno ai docenti, dovremo avere a che fare con ragazzi che si presenteranno in classe con un vocabolario arricchito di nuove parole. Pokéball, Pokéstop, palestre e incubatrici virtuali. Non potremo certo voltare le spalle, rispondere ai nostri ragazzi con un «non me ne intendo, non mi interessa». La sfida di chi vive tra i banchi è anche quella di conoscere il linguaggio dei ragazzi, di entrare realmente in contatto con loro, di essere in grado di lasciare un segno anche parlando di mostri. Dovremo essere preparati, avere compreso il fenomeno per poterlo affrontare. Chi insegna non può lasciare soli i suoi allievi, nemmeno nella realtà virtuale. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Alex Corlazzoli, Liberiamo le scuole dai Pokémon, dal Fatto Quotidiano del 6 settembre. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Letture di Radio 24. Secondo la Caritas, in Italia il numero delle prostitute su strada è quasi raddoppiato negli ultimi 5 anni. E come scrive Gianluca Ferraris in un'inchiesta pubblicata su Panorama del 7 settembre, a Roma e Milano sono gli sfruttatori rumeni, albanesi e nigeriani, assieme all''ndrangheta, a farla da padroni. Solo a Milano ci sarebbero circa 1600 prostitute con un'età media sempre più bassa. Nello stesso numero di Panorama, uno scrittore ha raccontato la sua esperienza di una notte trascorsa lungo la circonvallazione di Milano per parlare con le giovanissime ragazze di vita. Sono le 9 di sera dell'ultimo sabato d'agosto. Il cielo non è ancora diventato scuro. I bar degli aperitivi si stanno svuotando, i ristoranti si stanno riempiendo. La serata deve ancora iniziare. Eppure su Viale Abruzzi, dal kebabaro che sta all'angolo con Via Paisiello, c'è già qualche ragazza sulla strada, mentre altre stanno finendo la loro piadina prima di cominciare. Sembra l'inizio di un turno di lavoro come un altro. Due ragazze gettano la carta che avvolgeva la loro cena in un cestino. Escono dal locale, una si ravviva i capelli inseguendo la sua immagine nel riflesso della vetrata, accendono una sigaretta, si incamminano sui tacchi altissimi pochi metri più in là, si distanziano. Una accende un lettore MP3, mette le cuffie, scuote la testa. L'altra si ricontrolla il trucco guardandosi distrattamente nello specchietto di un portacipria e comincia a roteare la borsetta. Sulla circonvallazione esterna, l'anello che riveste il cuore allargato della città, ci sono pochissime macchine. Nella notte silenziosa, i rumori delle auto che sfrecciano si distinguono perfettamente l'uno dall'altro, esattamente come i richiami delle ragazze della strada, svogliate sirene che cercano, non troppo convinte, di richiamare con qualche amore, andiamo, i vari viandanti senza meta, che a volte sfrecciano via, a volte si fermano, inchiodando, e ripartono. Altri ci ripensano, fanno il giro e tornano indietro, accostando elegantemente davanti alla ragazza. Le strade milanesi di notte vivono di un equilibrio precario, con regole, gerarchie e ruoli che ogni elemento parte di questo delicato ecosistema è invitato a rispettare, ognuno con la sua brava dose di ambizioni, illusioni, frustrazioni, curiosità, malizia, sopraffazione, violenza. Ci sono le prostitute che devono lavorare indefesse, i clienti che devono prima pagare e poi fare quello che devono fare in fretta, i protettori che devono far lavorare le ragazze e proteggere la loro zona dalle mire dei concorrenti, le forze dell'ordine, che devono intervenire a seconda delle indicazioni ricevute dai superiori, e infine i passanti, che devono ammirare le ragazze, ma possibilmente non disturbare. Il mio ruolo questa notte è quello del voyeur, del guardone, dell'impiccione. Non ho una meta precisa, solo un dedalo di strade da percorrere in macchina, e la scusa per osservare e affiancare qualcuno e provare a fare qualche domanda. Contare le ragazze, questa sera a centinaia per le strade, capire le divisioni in zone, che ci sono e sono anche evidenti, richiede organizzazione, conoscenza toponomastica, per non fare confusione dei punti dove si è già passati, per non sovrapporre le ragazze che c'erano, non ci sono più, ma poi tornano. Il fenomeno della prostituzione è sociologicamente molto articolato e complesso, ma per gli attori di questa transazione economica è una faccenda molto semplice. È pieno di persone che hanno voglie e sono disposte a pagare per soddisfarle, altre persone che guadagnano soddisfacendole. Su Viale Liguria vedo una ragazza particolarmente giovane, accosto. Le domando, sali? Sale. Le dico che voglio solo parlare. Mi chiede i soldi. Le do 30 euro per un quarto d'ora. Sono tanti quelli che vogliono parlare? Chiedo. A parte quelli delle associazioni, non molti. Vogliono tutti fare sesso. Quasi tutti. Ma quasi tutti poi non riescono a farcela. Ma pagano lo stesso. Certo. Dice di chiamarsi Anca, di venire da un paesino vicino a Bucarest, in Romania. Di avere 21 anni. Insisto che mi sembra molto giovane. Mi dice 17. Ma sembra che lo faccia perché ho insistito. Richiedo, dice 18, ma non riesco a capire quanti anni abbia davvero, visto che racconta di essere venuta qui con la promessa di uno zio di farla studiare da veterinaria. Poi invece l'ha mandata a dormire a casa di un suo amico, che la notte dopo aver fatto sesso con lei, mezzo con la forza, mezzo no, l'ha messa sulla strada a lavorare. Ha voglia di parlare, ma ha pure fretta. Mi sta ancora raccontando di un cucciolo randagio che aveva salvato da piccola quando fissa il cellulare e manda un messaggio. Scrive tutto ok e scende dalla macchina per tornare al suo posto. Viale Brianza, Viale Marche, Viale Misurata, ai lati delle strade perdo il conto di quante sono. Ero arrivato a 211 fino a Corsico e ritorno, ma poi mi perdo. passo un birrificio della Poretti, stazioni dei Carabinieri, la casa di accoglienza Enzo Iannacci con due senza tetto sdraiati fuori, sui gradini, un parchetto in viale Ortles dentro cui clienti e spacciatori scavalcano avanti e indietro, la festa dell'Unità in piazzale Lodi. Approfitto dei semafori alle rotonde, accesi come se fosse giorno, per prendere qualche appunto. Viale Liguria, viale Toscana, viale Isonzo. Il prezzo è sempre lo stesso. Le belle di notte, tutte diverse. Nere come la notte, biondissime, tracagnotte, anziane, vestite come ragazze che vanno a ballare, oscene e pagliaccesche, confondibili, sedute alle fermate degli autobus, ferme sul posto, al telefono, provocatorie, distratte. Alcune accendono un passo di danza. La maggior parte sono visibilmente stanche, morte e annoiate. Sono le 3:30 del mattino. Su viale Cassala una ragazza molto allegra si sbraccia, rallento. Dal finestrino aperto mi entra gioioso il suo amore, andiamo. Aspetto di poter fare inversione e torno indietro, ma non c'è più. Decido di aspettare, passa quasi mezz'ora. Poi una berlina nera la fa scendere e riparte. La ragazza fa qualche passo. Recupera una Red Bull appoggiata su un muretto, mi vede con le quattro frecce accese e si avvicina. Apre la portiera e sale in macchina senza che dica niente. Le anticipo che voglio solo parlare. Sbuffa e dice: «Non è meglio scopare?» Le dico che sto scrivendo sulle prostitute. Dice che preferisce il termine professioniste. Dico che vorrei capire meglio questo ambiente. Ride. Ha l'alito che sa di fragola perché i preservativi che fa usare i suoi clienti hanno quell'aroma. Beve un sorso dalla lattina. Parla benissimo l'italiano. Le chiedo di raccontarmi la sua storia. Sbuffa, ride. Vuole sembrare una delle protagoniste di reality sui bordelli americani. Poteva diventare qualsiasi altra cosa, le dico. Sei giovane e potresti ancora fare altro. Perché non scappi? Ma scappare da cosa? Mi deride, come una che sa della vita molto di più di quanto ne sappia io. Insisto. Ma lei cambia discorso. Dice di chiamarsi Andrea, di essere moldava, di avere 19 anni. Gira la testa per farmi vedere una piccola svastica tatuata dietro l'orecchio. Un regalo del suo ex fidanzato ucraino, dice, sempre ridendo. Poi mette via in fretta i soldi che le do, manda un messaggio al cellulare, tutto ok. Mi dice: «Io vado». Ma prima di scendere dalla macchina mi ammonisce: «Scappare da cosa? Io faccio questo, vivo così. Non è mica un dramma. Tu piuttosto, che te ne vai in giro a fare domande, sicuro che non preferiresti scopare». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Cubeddu Tra le giovanissime da marciapiede, da Panorama del 7 settembre. Dopo la figuraccia fatta il mese scorso con il caso del presunto rapitore indiano arrestato e scarcerato due volte, la magistratura italiana è tornata al centro delle polemiche nei giorni scorsi, quando il DJ picchiatore è riuscito a fuggire e a tornare in Spagna. Lo scorso 27 luglio, Nicolás Lecumberri, un DJ spagnolo di 23 anni, era stato arrestato e portato a San Vittore con l'accusa di aver preso a pugno una decina di passanti, fermati con la scusa di chiedere informazioni. Il DJ era rimasto solo pochi giorni in carcere, fino a quando il GIP, Livio Cristofano, aveva accolto l'istanza degli avvocati di cambiare il regime detentivo del picchiatore con gli arresti domiciliari, da scontare in una comunità psichiatrica di Varazze. Ma il giudice non aveva comunicato nulla ai legali dello spagnolo e nemmeno alla comunità che avrebbe dovuto accoglierlo. Per cui Nicolás, una volta uscito dal carcere, ha pensato bene di tornarsene in Spagna. «Stavolta il vero colpevole è il giudice», commenta Luca Fazzo in un editoriale pubblicato sul giornale. Adesso che la fuga di Nicolás è finita senza nuovi drammi, tirano un sospiro di sollievo i suoi familiari e i suoi avvocati, e dovrebbe farlo anche il giudice, scrive Fazzo, che poi prosegue. Perché se questo giovanotto spagnolo psicolabile e aggressivo avesse colpito ancora, la responsabilità non sarebbe stata solo sua, anzi, non sarebbe stata sua per nulla, viste le condizioni del suo equilibrio mentale. Mentre invece il magistrato che ne ha ordinato l'uscita da San Vittore senza scorte, senza controlli, senza avvisare nessuno, mollandolo alla deriva, confidando chissà perché che si presentasse disciplinatamente in una comunità di recupero, in un paesino di cui nemmeno conosceva l'esistenza, beh, questo magistrato non ha alibi. E insieme alla colpa di aver scaraventato Nicolás fuori dal carcere, porta oggi anche quella di aver dato nuovi argomenti a chi accusa i giudici italiani di trasformare in arbitrio la discrezionalità che la legge affida loro. soprattutto quando si tratta di decidere chi tenere in galera e chi mandare a spasso. Una responsabilità enorme, cui però si sono dichiarati pronti quando hanno partecipato al concorso per entrare in magistratura e che invece spesso sembra diluita nella sciatteria. Da un lato c'è chi viene lasciato agonizzare in carcere anche se malato terminale. Da ultimo il caso di G.C., un detenuto milanese spirato il 2 agosto dopo che gli era stato rifiutato ripetutamente di venire curato in ospedale. Dall'altra si liberano gli sciacalli del terremoto o lo sbandato che aveva cercato di rapire una bambina, soggetti che pure incarnano al 100% quel pericolo di nuovi delitti che il codice indica tra i requisiti per il carcere preventivo. A volte accade che dietro l'assurdità di certe decisioni si intravveda l'ombra del pregiudizio ideologico, ma sono casi isolati. A produrre scelte demenziali è quasi sempre la superficialità, il pressapochismo che degrada la sacralità della toga a routine da passacarte, e contro questo nemico non c'è rimedio. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Luca Fazzo, stavolta Il vero colpevole è il giudice, da Il Giornale del 4 settembre. L'idea che alcuni intervalli di note sono gradevoli mentre altri sono fastidiosi è uno dei fondamenti di tutta la musica classica occidentale. Ma per quale motivo? Le nostre reazioni alla consonanza o alla dissonanza derivano dalla nostra natura o dalla nostra cultura? Una recente ricerca su una tribù dell'Amazzonia ha gettato nuove luci sul dibattito. Il neuroscienziato del Massachusetts Institute of Technology, Josh McDermott, ha lavorato con gli Tsimane che vivono nella foresta pluviale, non hanno accesso alla musica occidentale e producono una musica prevalentemente per solisti. Josh ha scoperto che mentre gli indigeni hanno riconosciuto la differenza tra intervalli consonanti e dissonanti, hanno comunque trovato entrambi gradevoli. I risultati di questa ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, hanno spinto McDermott a suggerire che il ruolo della cultura sia più importante dei fattori biologici nel determinare il gusto. E quello che avete ascoltato era l'articolo I suoni della foresta pluviale, dal numero di settembre del mensile BBC Music Magazine.